Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Via Zanardi in Bologna, Via Zanardi in rifacimento asfalto, se c'era casino in tempi normali adesso è triplicato, ma questo è un discorso che a voi non interessa se non passate per Via Zanardi. Comunque, oltre ai 103.1 MHz potete trovarci sul web scaricando l'apposita app dal sito, app assolutamente gratuita, dal sito radiocittafujiko.it. E vi ricordo anche che potete trovare il podcast di questa trasmissione che sta per andare, anzi è già partita, che si chiama Città Fujiko Live Club. Potete trovare il podcast sempre sul sito della radio, nell'apposita parte dedicata a questo tipo di esperienza, appunto il podcast. Perché appunto Città Fujiko Live Club, che ogni mercoledì per un paio di ore si propone di farvi ascoltare musica registrata dal vivo, musica ufficiale di tutti o quasi i generi, ma soprattutto di tutte le epoche. E come ogni trasmissione, anche oggi abbiamo una novità che vi propongo, novità che è ad opera di un personaggio che non ha mai avuto un grande successo dalle nostre parti, ma che nel resto del mondo, oserei dire, era conosciutissimo e apprezzatissimo. Dico era, perché purtroppo ci ha lasciato alcuni anni fa, nel febbraio del 2011, mentre era in vacanza in Spagna, purtroppo ci ha lasciato. Sto parlando di un grande chitarrista, cantante un po' meno, ma grande chitarrista, che rispondeva al nome di Gary Moore. Gary Moore veniva da Belfast, Irlanda del Nord, e partì con una band che si chiamava Skid Row, non quella americana che ha lo stesso nome, ma una band degli ultimi anni 60 che ebbe un successo locale. Successo però che lo fece conoscere, tanto che alla fine entrò nei Thin Lizzy, band molto più importante, band nella quale è diventato molto molto amico con Phil Lynott, che era il leader della band. Lui ha lasciato la band parecchie volte, è ritornato tante volte, è stato tantissime volte ospite dei Thin Lizzy, che era veramente una grande band. Il suo primo album solista era del 1973, ricordo anche un concerto in cui lo vidi insieme alla band nella quale militava allora, che erano i Colosseum 2, i secondi Colosseum, al Chivi di Piumazzo, non so se lo conoscete, provincia di Modena, era il 15 giugno del 1977, poi ho avuto anche la fortuna di vederlo a New York al Beacon Theater, che vi preannuncio subito sarà protagonista della prossima trasmissione, il Beacon Theater. Dopo la morte di Gary Moore sono usciti diversi album, quasi tutti dal vivo. Questo è l'ultimo in ordine di tempo. Il mio francese è pessimo, credo che si pronunci Bolloa Session. Infatti l'album si chiama Live from Bolloa Session. È un CD più Blu-ray, è stato registrato all'omonimo festival che si svolge a Basilea in Svizzera, nell'occasione particolare il 13 novembre del 2008. Dopo tutte queste chiacchiere ce ne andiamo ad ascoltare Gary Moore con uno dei suoi classici e anche una manifestazione di intenti. Si chiama Still Got the Blues, Gary Moore. So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found that love was no friend of mine. I should have known. Thank you. ancora il blues, ci diceva Gary Moore, Still Got the Blues, da questo nuovo album uscito postumo, come vi dicevo, si chiama From Balois Session. Il mio francese naturalmente è pessimo, per cui perdonatemi se pronuncio male, si scrive Valois, spero si pronunci così. Comunque è un festival che va in scena da 40 anni fra ottobre e novembre a Basilea in Svizzera, e ogni tanto cambia sponsor. Questa Balois dovrebbe essere un'assicurazione, una compagnia di assicurazioni svizzera che lo sponsorizza dal 2013. Fra parentesi, tutti i concerti sono registrati e trasmessi in TV in 40 nazioni, naturalmente l'Italia è esclusa da questa, da questo po' di roba, e non capisco esattamente perché. Basilea, Svizzera, è come tutta la Svizzera, è un paese molto molto musicale, che ne pensi la gente, e ci sono tantissime registrazioni effettuate in questa nostra nazione vicina, e ce ne ascolteremo qualcuna adesso, registrata appunto nel paese del formaggio, degli orologi, mettetela, della cioccolata, mettetela come volete. Però c'è un paletto, mettiamo un paletto, che è quello, finché è possibile, di ascoltarci registrazioni di artisti e musicisti non anglosassoni. Magari cantano in inglese, ma non lo sono. E infatti cominciamo dagli italiani, e sono molto contento di questa cosa. Il miglior gruppo italiano, per quel che mi riguarda, è stato sicuramente, lo è tuttora forse, ma ne è stato sicuramente la premiata Foneria Marconi, che molti di voi ricorderanno nascere tantissimi anni fa, nel 1971, ed essere ancora in giro, anche se l'unico membro originale è Fred Ticcioccio, il batterista. Hanno avuto anche successo negli States, tanto che una band grandiosa come i Fish li citano fra le loro influenze. Hanno fatto parecchi dischi dal vivo, un paio con Fabrizio De André, ma questo lo sapete sicuramente, e uno degli ultimi si chiama The Event, è stato registrato al Lugano Estival Jazz Festival, attenzione, ho detto Estival e non Festival, un gioco di parole, diciamo così, il 27 agosto del 2022. Il pezzo che ho scelto è un super, super, super, super classico che riconoscerete immediatamente. Penso a te.

consapevole di un cucciolo animale, archivio vivente della terra, un battito di ciglia sonnolente racchiude un'esistenza, spazio determinato, stretto dilatabile, spazio determinato, stretto dilatabile, mi incanta. Chi c'è, c'è, e chi non c'è, non c'è. C'è, c'è, e chi Due dei migliori gruppi italiani, prima i vecchi PFM, poi questi oramai vecchi anche loro, CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti, Noi Non Ci Saremo volume 1, è una delle due antologie che sono uscite postume con brani in studio, brani dal vivo. Questo è stato registrato per la TV di Stato Svizzera, all'Auditorium della Radio Svizzera Italiana, che fa un sacco di concerti e li trasmette in TV, qua in Italia naturalmente no. Il tutto a Lugano, era il 22 dicembre del 1997, il pezzo si chiama A Tratti, il CSI. We'll be right back.

Forse pochi ricordano che, pur avendo operato per grandissimo e vissuto per grandissimo tempo negli Stati Uniti, José Vinul non era americano, come si suol dire, ma veniva da Vienna, in Austria. Lui ha studiato al conservatorio, dopo essersi diplomato se n'è andato negli Stati Uniti per perfezionare la propria musica, ma è stato subito ingaggiato da Cannon Balladery per la sua band, per cui lasciò stare gli studi e iniziò a suonare in giro per il mondo. Dopo è stato anche con Miles Davis, poi naturalmente dal 1970 al 1986 insieme ai grandissimi Weather Report. Dopo di loro ha fondato i Josie Vinul Syndicate, che è quello che ci siamo ascoltati adesso. Lui poi è tornato a vivere a Vienna, dove è morto, fra parentesi, nel settembre del 2007. Un paio di mesi prima, però, al Estival Jazz Festival, sempre quello di prima della PFM di Lugano, incise un album che si chiamava 75, si chiama 75, perché è 75th, anzi, perché c'è il TH, perché era il giorno del suo compleanno e quindi compiva 75 anni, ha registrato il concerto, ha pubblicato questo doppio album dal quale è stato tratto questo capolavoro, che è un medley di due brani che era già nel repertorio dei Weather Report. Si chiama Badia Boogie Boogie Waltz, lui era José Vinul. Vengono dalla Finlandia, invece, esattamente da un posto che si chiama Kiti o qualcosa del genere. Si chiamano Nightwish, viene catalogata come symphonic metal band, una cosa veramente strampalata, diciamo così. Sono attivi dal 96 e hanno la caratteristica della voce femminile, che fra l'altro la vocalist è cambiata diverse volte nel corso della loro carriera. Hanno fatto 6 live albums e diversi singoli con canzoni dal vivo. Questo è uno di quelli, si chiama The Siren, il brano di punta, riproposto 3 volte, la terza con messaggi diversi naturalmente. La terza è la versione live di The Siren, che è quella che ci andiamo ad ascoltare, registrata alla Stadthalle di Chur in Svizzera, che è il leitmotiv della prima parte della trasmissione, insieme ad un'orchestra che sentirete. Era il 27 febbraio del 2005, loro sono Nightwish, il pezzo si chiama The Siren. The next thing that we're going to do is from the album Once, this one's called The Siren. Avete sicuramente riconosciuto questo Rebel Yell, un classico di Billy Idol, in questo caso interpretato dagli Him. Era il brano conclusivo del loro concerto del 25 giugno del 1999 all'Open Air Festival di St. Gallen in Svizzera. Him è una band finlandese, come i Nightwish che ci siamo ascoltati in precedenza, ma tutta un'altra cosa oserei dire. E sono stati attivi dal 1991 al 2017 e poi si sono sciolti e hanno suonato in diversi gruppi del Nord Europa, visto che loro sono molto famosi da quelle parti. Hanno fatto un album live e questo singolo che si chiama Join Me, il brano di punta è Join Me, che comprende due brani dal vivo, questo Rebel Yell appunto registrato in Svizzera nel giugno del 1999. E concludiamo questa rassegna di artisti e gruppi non anglosassoni come provenienza, poi di lingua quasi sicuramente, perché John Butler Trio arriva da Fremantle, Australia, quindi è anglofono ai massimi livelli. Il trio è stato attivo dal 1998 al 2019, poi John Butler si è messo in proprio, anche se poi quando suona dal vivo suona in trio. Anche lui ha registrato addirittura un intero concerto doppio CD più DVD al St. Gallen Open Air Festival il 3 luglio del 2005. Il pezzo che ho scelto per voi per problemi meri di tempo si chiama Something Gotta Give, grande personaggio John Butler Trio da St. Gallen, Svizzera. This song is dedicated to all those people out there who want peace on this planet and don't want a war in Iraq or war anywhere. days. Oh, 30 days. 30 days. I'm gonna see me back home. 30 days. Who had a real one who knew that'll be the very thing they ever see with you. I'm gonna see me back home. 30 days. And I'll talk to the judge and pop early this morning. Give me to the sheriff's office. Sign a warrant. Against you, that'll be the very thing they ever send you. I'm gonna see you be back home. 30 days, yes I am. Oh, 30 days, 30 days. I'm gonna see you be back home. 30 days. I'm gonna put a fast charge against you. That'll be the very thing they ever send you. I'm gonna see you be back home. 30 days. If I don't get no satisfaction from the judge, take it to the FBI, wash my grudge. You don't give me no consolation. I'm gonna take it to the United Nations. I'm gonna see you'll be back home. 30 days. Yeah. Oh, 30 days. Oh, 30 days. I'm gonna see you'll be back home. 30 days. You don't give me no consolation. I'm gonna take it to the United Nations. I'm gonna see you'll be back home. 30 days. Seconda parte di Città Fusicola e Club, siamo al 23 luglio 2025, penultima trasmissione di questa prima parte dell'anno per quel che riguarda Città Fusicola e Club, appunto, ma anche per quel che riguarda la radio, non è che rimanga aperta in agosto. Comunque il tutto sempre dai 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fusico. E seconda parte che è iniziata con la novità che vi propongo quest'oggi, Gary Moore, un grandissimo chitarrista nordirlandese che purtroppo, come vi dicevo, ci ha lasciato oramai tantissimi anni fa nel 2011. E l'ultimo album uscito chiaramente postumo è un album che è stato registrato in Svizzera nel corso di un Balois Session Festival a Basilea, per la precisione. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama 30 Days ed è stato inserito, diciamo, al volo in questa seconda parte per sempre problemi di tempo. Io sono molto prolisso per quel che riguarda i brani, per cui devo delle volte calmierarmi. Comunque, ottimo album questo di Gary Moore, chitarrista forse un po' troppo poliedrico, un po' troppo esuberante, diciamo così, però sicuramente grande personaggio. Lo ripeto, l'album si chiama Live at Balois Session Festival. If I ever leave you, come sempre nella seconda parte di Città Fusico Live Club arriva però Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Ancora una volta tantissime cose, ancora una volta so che sono tedioso, ma devo dire che il criterio di scelta è un brano per ogni decade. e anche oggi ce ne sono tantissime, iniziando dagli anni 60, tardi anni 60, siamo nel 1968, una delle prime registrazioni live di Frank Zappa and the Mothers of Invention. Credo che, spero, Frank Zappa non abbia bisogno di presentazioni. Diciamo, una delle prime registrazioni, 23 luglio 1968, però pubblicato solamente nel giugno del 2024, triplo CD, molto molto bello. Ci sono anche alcune cose, come al solito con Frank Zappa, che lasciano un po' il tempo che trovano, ma sicuramente sono veramente incredibili i musicisti che suonano nelle Mothers of Invention. Questo è uno degli ultimi album usciti postumi dopo la morte del buon Frank. Si chiama Whiskey Go Go 1968, perché è il 68, come vi dicevo, e ce l'andiamo subito ad ascoltare. Ho scelto per voi uno dei super classici della prima epoca delle Mothers of Invention, e quindi anche di Frank Zappa. Si chiama King Kong, che in questo caso è diviso in due parti, dura il tutto più di 20 minuti. Questa invece è la prima parte, 7 minuti e 57, di Frank Zappa and the Mothers of Invention. so nice to have Carl Fanzoni out of jail. E qua parte la seconda parte di King Kong con questo, finisce con questo mega stacco di due batterie. Al tempo le Mothers of Invention avevano due batteristi, Art Tripp e Jimmy Carr Black, che come avete sentito del casino ne facevano. Comunque il tutto è stato registrato al Whiskey Go Go, questo locale storico di Los Angeles, che ha visto in scena tantissimi musicisti negli anni 60. Primi, naturalmente, quelli che vengono ricordati di più sono i Doors, e fra l'altro la leggenda narra di una grandiosa session durata praticamente tutta notte fra i Doors e le Mothers of Invention di Frank Zappa, che suonavano nella stessa serata nello stesso locale, appunto il Whiskey Go Go. 1968, vi dicevo, però pubblicata nel giugno del 2024, triplo CD, una delle ultime uscite della categoria di Frank Zappa, che è curata dai figli in questo momento, e fra l'altro anche uno di quelli a buon mercato, mentre ce ne sono altri che sono veramente a prezzi improponibili. Dal 1968 passiamo al 1973 insieme a uno dei miei beniamini, si chiama Van Morrison, veramente incredibile, anche se ultimamente qualche disco in studio ha lasciato un po' a desiderare, ma lui è un grandissimo musicista, oltre a cantare con una voce incredibile suona la chitarra, il sax e le tastiere, e anche lui, come Gary Moore, che ci siamo ascoltati in apertura delle due parti di Città Fujiko Live Club, anche lui viene da Belfast, Nord Irlanda, è stato con gli Zem dal 1964 al 1966 e poi una carriera solista che gli ha dato tantissime soddisfazioni, ma ha dato tantissime soddisfazioni anche a noi suoi fans, con dei dischi veramente incredibili. Il primo album live che ha fatto si chiama It's Too Late to Stop Now, è uscito come doppio LP nel febbraio del 1974 ed era praticamente preso, i brani erano presi da tre diverse registrazioni, da tre diversi concerti, e nel 2016 è uscito It's Too Late to Stop Now Volumes 2, 3, 4 and DVD. Lo dico in italiano perché il mio inglese è tutt'altro che capibile. It's Too Late to Stop Now è il titolo dell'album naturalmente originale, ma qui abbiamo il volume 2, 3, 4 e DVD, perché sono contenuti in questo, appunto, triplo CD più DVD, sono contenuti i tre concerti quasi in maniera integrale. Lo dicevo, è stato pubblicato nel giugno del 2016 ed è veramente assolutamente da non perdere. Il volume 4, che è quello che interessa a noi, è stato registrato il 23 luglio del 1973 in quel del Rainbow di Londra, altro locale storico, stavolta locale storico come il Whiskey Go Go in precedenza. Anche il Rainbow a Londra ha fatto la sua bella figura. Van Morrison, ce l'andiamo ad ascoltare ed è sempre un gran piacere. All of my friends are, and they'll stay with me until the end. Gypsy, gypsy, gypsy, gypsy, Robin, a sweet Amarillo. Tell me everything I need to know. Turn up your radio. Then let me hear the song. Switch on your electric light. Then we can get down to what is really wrong, really wrong, really wrong, really wrong, really wrong. How long? Just

Sam Morrison of the Caledonia Soul Orchestra. Thank you. Chiedo scusa, ma in sede di presentazione mi sono dimenticato semplicemente di dire il titolo di questo brano, che è Caravan. Il tutto tratto da questo concerto al Rainbow di Londra il 23 luglio del 1973, immortalato parzialmente sul doppio long play It's Too Late to Stop Now e poi quasi integralmente invece in It's Too Late to Stop Now Volume 2, 3 and 4 and DVD. Il tutto pubblicato nel 2016 con grande e immensa gioia da parte di chi vi sta parlando. Oh, as she pass? Are you following me? Are you following me? Well, so far my pretty ones can follow you. I'm the market trade hero. I'm the market trade hero. To be market trade heroes, we're the market trade heroes. Are you following me? Are you following me? Are you following me? Are you following me? Are you following me? Are you following me? Are you following me? Are you following me? Are you following me? Are you following me? Are you following me? And today, St. Andrews, Fife, you are the heroes. And thank you for being so. You've been beautiful. Thank you. Hanno fatto decine, ma non sto scherzando, decine e decine di album live in Marillion, questa band che viene da Lesbury ed è attiva dal 1979. Però attenzione, ci sono due fasi nella carriera della band. La prima con alla voce Fish, un cantante molto noto e molto apprezzato dal pubblico, questo dal 1981 al 1988. Dopodiché è subentrato Steve Hogarth, che ha un po' cambiato quella che è la musica della band dal 1989 ad oggi. E questo è un doppio CD che è il bignami di un cofanetto di 12 album che si chiamava Early Stages. E infatti questo, che è solamente doppio, si chiama Early Stages The Highlights e racchiude la prima parte della carriera dei Marillion, quella con Fish appunto, con una serie di registrazioni effettuate qui e là per la Gran Bretagna. Questo in particolare, Market Square Heroes, il titolo del brano dei più famosi nella produzione della band, è stato registrato a Craigton Country Park di St. Andrews in Scozia ed è stato registrato il 23 luglio del 1988. Loro erano Marillion. Il blues in Italia, pur non avendo diciamo molto clamore mediatico, soprattutto dalla TV ma anche dai giornali fra virgolette normali, il blues però ha un suo substrato, un suo pubblico, un suo movimento veramente notevole. E non ho tema di smentita nel dire che questo movimento tellurico, oserei dire, di blues in Italia è stato iniziato da un personaggio che si chiama Fabio Treves. È un armonicista, appunto è attivo dal 1974 suonando blues dovunque fosse possibile. Lui e la sua Treves Blues Band. Ricordo con un concerto anche a San Giovanni in Persiceto, sperduto nella bassa bolognese, e fu veramente molto molto bello, tantissimi anni fa. Hanno registrato 3 album dal vivo, fra cui uno con Mike Bloomfield, eccelso chitarrista blues americano. Questo è il primo, si chiama Live con il punto esclamativo, ed è appunto accreditato alla Treves Blues Band. E dentro c'è un bel bigliettino scritto a mano da me, perché appunto ho chiesto personalmente a Fabio Treves dove era stato registrato l'album, visto che non c'è scritto assolutamente niente nelle note di copertina, e lui mi ha detto che è stato registrato a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure, Italia naturalmente, il 23 luglio del 1996. Quindi ce l'andiamo ad ascoltare. Questo è il brano di apertura, un brano scritto di suo pugno da Fabio Treves, si chiama Living the Blues, 1996. We'll be right back. am living in the blue. You know, I am living in the blue. When I say bye bye, baby, I need have no more to say. Pretty baby, please don't go away from me. Pretty baby, please don't go away from me. You can love me or leave me, you can treat me wrong all time. Away from me. You can love me or leave me, you can treat me wrong all time. Vivendo nel blues, Living in the Blues, Travis Blues Band, con Fabio Travis, armonicista eccelso, cantante un po' meno, ma comunque vi assicuro che dal 23 luglio 1996, quando è stato registrato questo brano, è migliorato notevolmente dal punto di vista vocale. Comunque, appunto, una registrazione del 1996, Travis Blues Band, l'album si chiama Live, con il punto esclamativo. Vengono dall'Australia invece, è un trio ed è attivo dal 1994, si chiamano Vines e sono veramente aggressivi, belli belli belli tosti. E loro hanno fatto una serie di singoli, non hanno album dal vivo o almeno ufficiali, hanno fatto diversi singoli con canzoni dal vivo, questo è uno di quelli, si chiama Out of the Way o qualcosa del genere ed è stato registrato in due versioni. La versione che vi propongo è quella che contiene un brano registrato al Festival di Reading il 23 luglio del 2002 che si chiama Get Free, lo ripeto, loro invece si chiamano Vines. Love. E vi dicevo, belli tosti questi Vines, il brano si chiama Get Free, Reading Festival, naturalmente in Gran Bretagna, 23 luglio 2002. Mentre a concludere Città Fujiko Live Club e naturalmente ricordi Today, arrivano i Barclay James Harvest, o meglio una parte dei Barclay James Harvest, band che è nata nel 1966, però alla fine degli anni 90 si sono splittati in due. Da una parte Barclay James Harvest featuring Les Holroyd, dall'altra John Lee's Barclay James Harvest, che è quello che ci andremo ad ascoltare. High Voltage Festival, un festival principalmente votato al progressive, e quindi ce l'andiamo ad ascoltare. Il tutto che è stato registrato appunto in quel di Londra e al Victoria Park nel 23 luglio del 2010. Ce ne andiamo ad ascoltare, anzi 2011, scusate. Il brano che ho scelto per voi, per meri motivi di tempo, come al solito sono in ritardo, si chiama She Said. Loro sono John Lee, Barclay James Harvest. Ciao a tutti da Nevio. Thank you.